credo sia stato difficile, duro combattere per un mondo libero, ma che in realtà non lo è stato mai, a causa del peccato e del vizio, della mania e voglia di potere, di sovrastare senza essere sottomessi a niente, a nessuno. Sono storie, storie di un passato presente nel futuro, degli uomini, di chi fugge via da un mondo di odio e di violenza. Sono storie, storie di un passato presente nel futuro, degli uomini, di chi fugge via da un mondo di odio e di violenza. Eterna di Dio, ma fragile quell'uomo che crede di essere capace di sopravvivere ad una natura matrigna e implacabile, che non dà tempo, non dà scampo. La storia umana racconta di inutili eroi, di comandanti e Babilonia. Sono storie, storie di un passato e presente nel futuro, degli uomini, di chi fugge via da un mondo di odio e di violenza. Sono storie, storie di un passato e presente nel futuro, degli uomini, di chi fugge via da un mondo di odio e di violenza.